Mezzogiorno. Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. La maxi inchiesta sulle fatture false nel mondo del calcio. Ci sono 64 indagati e sarebbero coinvolti anche Galliani, Lotito e De Laurentiis. Secondo i PM esisteva un sistema radicato per evadere le tasse. Era un pizzaiolo separato che portava un regalo al figlio. L'uomo col fucile giocattolo che ha messo in allarme la stazione di Roma potrebbe essere indagato per procurato allarme. Parigi paralizzata dalla protesta dei tassisti, scontri, violenze e cassonetti incendiati. E in questa giornata anche l'evacuazione di 5 licei per un allarme bomba. Prosegue a Genova la protesta dei lavoratori dell'Ilva, che sta tagliando in due la città. In piazza solo la FIOM, contrari gli altri sindacati. I senatori del PD riuniti danno il via libera al DDL sulle unioni civili nel suo impianto generale. Libertà di coscienza sul tema dell'adozione del figlio del partner. 20.000 abitanti di Alessandria, praticamente uno su cinque, saranno questa sera all'Olimpico di Torino per la semifinale di Coppa Italia contro il Milan. Maxi schermo in piazza. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati a Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo, i nostri contatti in apertura, effettogiorno@radio24.it per scriverci, il 349-238-6666, tanto per gli sms quanto per i messaggi su WhatsApp. In apertura dunque la maxi indagine partita questa mattina da Napoli per evasione fiscale e che tocca il mondo del calcio. Ci sono 64 indagati, abbiamo in diretta Laura Viggiano per un punto generale. Laura, buongiorno. Sì, buongiorno. L'operazione rientra in una indagine complessa che ha consentito di accertare l'esistenza di un sistema radicato finalizzato ad evadere le imposte e che coinvolge 35 società di serie A e serie B e un centinaio di persone tra calciatori e i loro procuratori. Un meccanismo fraudolento architettato secondo gli inquirenti per sottrarre materia imponibile alle casse dello Stato per un valore di oltre 12 milioni di euro. Un sistema adottato in particolare nella fase di compravendita dei calciatori. Nell'indagine coordinata dal procuratore aggiunto Vincenzo Piscitelli risultano indagati anche l'AD del Milan Galliani, il presidente del Napoli De Laurentiis, quello della Lazio Lotito, l'ex presidente della Juventus Blanca, della Valle per la Fiorentina, il sequestro effettuato questa mattina dalla Guardia di Finanza ha ricordato anche 17 calciatori, tra cui Lavezzi, Calaiò, Jankulovski. Oggi la Polizia Tributaria di Napoli ha eseguito in varie regioni d'Italia un sequestro di somme di denaro, beni immobili e quote societarie per un ammontare di oltre 12 milioni di euro, come dicevamo, nei confronti di 58 soggetti operanti nel settore del calcio professionistico. I fatti contestati riguardano il periodo che va dal 2009 al 2013. È tutto. E grazie Laura Viggiano per questo aggiornamento. Più avanti torneremo a parlare di tutto questo e ci faremo spiegare da Marco Bellinazzo del Sole 24 Ore, che spesso consultiamo in questi casi, come funzionava o come i magistrati presumono che abbia funzionato questo meccanismo di evasione fiscale. Nel frattempo c'è da registrare la dichiarazione che arriva dal Milan attraverso i suoi legali e dice: la vicenda è assolutamente marginale, non fondata, troverà la sua risoluzione sia sotto il profilo tributario sia sotto il profilo penale in una doverosa archiviazione. Questa dunque la reazione del Milan. Come si diceva, su questo torneremo più avanti, ma ora occupiamoci degli esiti del vertice di ieri tra i ministri degli interni europei. Sul tavolo la sospensione di Schengen e sei paesi che sembrano intenzionati a mantenere i controlli al confine. Da registrare questa mattina anche la presa di posizione della Polonia sul tema dei migranti. Alessandra Schepisi, buongiorno. Sì, buongiorno. Sospensione di 2 anni. Alla fine il vertice di Amsterdam fa propria la proposta più estrema. I ministri dell'interno europei infatti chiedono alla Commissione di attivare le procedure dell'articolo 26 del trattato, che prevede di estendere a certe condizioni i controlli alle frontiere dagli attuali 6 mesi ad 1 anno. Controlli finora introdotti da Francia, Norvegia, Germania, Austria, Danimarca e Svezia, ma a maggio scade il termine oltre il quale Vienna e Berlino non possono più chiudere le frontiere a meno di un'autorizzazione speciale. Un modo dunque, secondo alcuni, per salvaguardare lo spazio di libera circolazione. Per dirla con le parole del ministro olandese, proprio l'attivazione dell'articolo 26 serve a tenere dentro Schengen i paesi che potrebbero essere costretti altrimenti a uscirne per poter mantenere i controlli. Schengen salva per ora, dice Alfano, perché abbiamo poche settimane per evitare che si dissolva tra gli egoismi nazionali, mentre per il ministro degli interni austriaco questa è solo l'anticamera della fine. Schengen è sull'orlo del tracollo. Solo solo questione di tempo. Di certo il clima non è favorevole, anche perché si prevedono flussi massicci di migranti per tutto il 2016 e già poco fa l'annuncio della Polonia: porremo il veto a qualsiasi nuovo piano europeo che obblighi gli stati membri ad accettare quote di migranti. E con questo è tutto. Grazie Alessandra Schepisi, tutto questo torneremo a parlare più avanti anche di questo con il sottosegretario all'interno Domenico Manzione, che ieri tra l'altro era al vertice al fianco del ministro dell'interno Angelino Alfano, e cercheremo di capire come si mettono le cose e come si potrebbero mettere. Veniamo alla vicenda di Roma, all'allarme scattato ieri alla stazione Termini per un uomo con un fucile. Era un fucile giocato e questo lo sapevamo, la storia dell'uomo è emersa oggi. È un pizzaiolo di 44 anni, italiano, che pensava di fare un regalo al figlio, l'uomo che ieri ha provocato il panico alla stazione Termini di Roma, imbracciando un fucile che poi si è rivelato essere un giocattolo di plastica. I carabinieri lo hanno rintracciato stamattina. Si tratta di un pizzaiolo di 44 anni, residente a Roma, separato, che ogni settimana va ad Anagni per incontrare il figlio, al quale appunto aveva comprato il giocattolo. L'uomo è stato identificato e sarà ora ascoltato dai carabinieri. Ieri sera ha attraversato la stazione Termini imbracciando il fucile giocattolo. Alcuni passeggeri lo hanno notato e, scambiando il giocattolo per un Kalashnikov vero, lo hanno segnalato alla polizia. Momenti di panico, stazione evacuata. L'uomo nel frattempo, ignaro di tutto, è salito sul convoglio, dove è stato notato da un carabiniere in borghese che non sapeva nulla di quello che stava avvenendo a Termini. Il carabiniere ha verificato il fatto che l'arma fosse finta e l'ha lasciato andare. Per tutta la notte però l'uomo è stato ricercato dalle forze dell'ordine per essere identificato, cosa che è avvenuta questa mattina. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E per restare sulla cronaca, si è conclusa, per così dire, la corsa dell'Audi gialla che per giorni ha seminato il panico per le strade del nord-est. La scorsa notte le forze dell'ordine l'hanno rintracciata, completamente carbonizzata, nel Trevigiano, tra Onè di Fonte e Asolo, lungo il torrente Muson. Spento l'incendio, quel che è rimasto della carrozzeria è stato rimosso e messo sotto sequestro da parte della procura di Treviso. La stessa procura dice che con questo incendio le possibilità di risalire ai protagonisti della vicenda si sono ridotte al minimo. Siamo agli scioperi, alle proteste che stanno paralizzando Parigi, in piazza i tassisti, ma non solo loro, ma sono i tassisti quelli che stanno creando più confusione in queste ore. Ci sono già state delle violenze. Ci colleghiamo con la capitale francese, con Leonardo Martinelli. Leonardo, buongiorno, dove ti trovi e cosa sta succedendo e cosa è successo stamattina? Allora Simone, mi trovo a Bercy, quindi davanti al Ministero dell'Economia, a due passi dalla Sena. Soprattutto mi trovo in mezzo a più di 400 taxi, più di 400 vetture di tassisti arrivati da tutta la Francia per protestare contro il solito Uber. In Francia è stato messo fuori legge Uber Pop, che può essere fatto da qualsiasi persona, autisti senza formazione, con le proprie auto, ma resta legale il servizio di trasporto urbano con conducenti offerto appunto da Uber e da altre società. Questo servizio va alla grande a Parigi, nelle principali città francesi, dove mancano i taxi, dove soprattutto sono troppo cari. Qui oggi i tassisti chiedono di mettere fine definitivamente al servizio Uber, e proprio qui intorno hanno formato una specie di accampamento. Ci sono salsicce in fase di preparazione sulle grigliate, ascoltano musica, non se ne andranno, dicono, se non avranno una risposta. A Parigi in tutto ci sono più di 1500 tassisti che stanno mettendo anche un certo scompiglio in città, come dicevi. Stamani hanno bloccato l'accesso all'aeroporto di Orly, una navetta ha forzato il blocco, ha investito un tassista che manifestava, ricoverato d'urgenza all'ospedale. Altri tassisti particolarmente aggressivi hanno bloccato il periferico, la tangenziale interna di Parigi, a Porte Maillot, da dove partono i pullman per l'aeroporto di Beauvais, e lì ci sono stati nuovi scontri. 19 di loro sono stati fermati dalla polizia. Il primo ministro Manuel Valls ha condannato queste violenze giudicate inammissibili. Allora, Leonardo, qui davanti a Bercy ho parlato con uno di loro, devo dire l'apparenza pacifica, si chiama Nicolas, ascoltiamolo. Ça fait deux ans là maintenant qu'il y a le que les ils veulent libéraliser le métier. Ecco, Nicolas sta appunto dicendo che ha innanzitutto ha 38 anni, viene da Bordeaux, dal 2010 fa il tassista. L'ultimo anno ha avuto una riduzione del 20% delle proprie entrate, soprattutto la sua licenza che ha pagato 190.000 euro, oggi ne vale 150.000, il valore sta calando sempre più e le banche non gli danno più credito. Senti Leonardo, ti interrompo per chiederti questo, questa è una giornata particolare a Parigi anche per un altro motivo, sono stati evacuati cinque licei per un allarme bomba, no? Sì, proprio diciamo una mezz'ora fa c'è stato questo allarme in cinque licei, tra cui l'Henri IV, che è diciamo giudicato il miglior liceo pubblico di Francia, il simbolo anche di una certa elite, sono stati appunto evacuati i ragazzi da questi licei. Apparentemente non ci sono problemi, ma c'è comunque molta molta paura. Da tempo qui a Parigi si aveva proprio paura di una reazione di questo tipo contro queste scuole che sono appunto il simbolo dell'elite della Francia. Ti ringrazio, grazie a Leonardo Martinelli per questi aggiornamenti da Parigi. C'è un'altra città in difficoltà in queste ore ed è una città italiana, è Genova, in difficoltà per la protesta degli operai dell'Ilva. Notte in fabbrica, all'alba assemblea davanti ai cancelli dello stabilimento e l'annuncio: bloccheremo la città. Con i mezzi pesanti al seguito, il corteo della Fiomme si è messo in marcia. Occupato il casello autostradale di Genova Ovest, è bloccata la sopraelevata. La città è spezzata in due e il traffico è completamente nel caos. In un clima di crescente tensione, la protesta proseguirà ad oltranza finché da Roma non arriverà l'annuncio che all'incontro del 4 febbraio parteciperà anche il ministro Guidi o un rappresentante del governo. La Fiomme rivendica il rispetto dell'accordo di programma per Cornigliano del 2005 dopo la dismissione degli impianti a caldo, accordo che prevede una serie di integrazioni retributive e il mantenimento dei livelli occupazionali. Ma sullo sfondo aleggiano le incertezze e i timori legati alla vendita del gruppo da parte del governo. Questa è una vendita al buio, probabilmente a gruppi che hanno tutto l'interesse a ridurre la capacità e a ristrutturare. E quindi non è in gioco solo lo stabilimento di Cornigliano, ma è in gioco tutto l'assetto del gruppo. Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Genova. La giornata di mercati oggi vede la borsa italiana in positivo, vicine alla parità le altre piazze finanziarie europee, in una giornata appunto nella quale c'è stato un forte calo anche oggi per la borsa di Shanghai, che ha perso oltre il 6%. Ma oggi per l'Italia, soprattutto per il sistema bancario italiano, è una giornata importante perché il ministro dell'economia Piercarlo Padoan incontra la commissaria alla concorrenza europea Vestager per discutere della cosiddetta bad bank, ossia la struttura nella quale gli istituti di credito potrebbero far confluire i crediti non più esigibili, liberando i bilanci da un peso da oltre 200 miliardi di euro. Livia Zancaner, buongiorno. Buongiorno Simone. Allora, la partita oggi potrebbe essere chiusa, ma non è affatto scontato. La soluzione allo studio non prevede in realtà una bad bank intesa in senso classico, cioè appunto un veicolo in cui far confluire i crediti in default, ma una garanzia statale per chi compra da una banca il pacchetto di sofferenze. Allora, in estrema sintesi, se una società acquista da un istituto i crediti deteriorati e ricava meno del prezzo pagato, allora lo Stato può intervenire in futuro, cioè in seguito, e dare un indennizzo. Il problema è che la banca che compra i cosiddetti non performing loans deve pagare una sorta di assicurazione che consiste nel prezzo della garanzia pubblica, e qui si concentreranno proprio le discussioni maggiori tra Padoan e la commissaria Vestager. Bruxelles vuole infatti un prezzo di mercato, cioè non così basso da diventare un sussidio nascosto dello Stato. Il governo italiano teme invece che se il prezzo fosse troppo alto nessuno se ne servirebbe, quindi nessuno investirebbe. In ogni caso la partita sulle banche italiane potrebbe essere a un punto di svolta. Ricordiamo che il Tesoro e lo stesso Premier hanno ribadito ieri che il sistema è solido. In effetti oggi a Piazza Affari va bene, guadagna lo 0,9% e il comparto bancario recupera. Le migliori sono UBI più 6,3%, Banco Popolare più 5%, ancora debole invece il Monte dei Paschi meno 2,6%. Vedremo poi in giornata se ci saranno dei cambiamenti. E per ora è tutto a te Simone. Grazie Livia Zancaner per questo aggiornamento e veniamo al dibattito sulle unioni civili. Il testo è un passo passo dall'approdo in Parlamento, ma la notizia di questa mattina è senza dubbio il fatto che i senatori del Partito Democratico hanno dato il via libera all'impianto del DDL Cirinna, ovviamente con l'esclusione della stepchild adoption, ossia l'adozione da parte del partner, che viene considerato una questione di coscienza. Facciamo il punto con Elisabetta Fiorito. Elisabetta, buongiorno. Sì, allora Simone, accordo sull'impianto della legge, libertà di voto su alcuni emendamenti, tra cui la stepchild adoption. Il gruppo PD a Palazzo Madama ha approvato all'unanimità il disegno di legge sulle unioni civili. Il capogruppo Luigi Zanda ha detto chiaramente che il PD non è interessato a voti segreti, la nostra posizione è trasparente, ma intanto viene rinviato a martedì prossimo la decisione sugli emendamenti spinosi stepchild adoption. In primis, il 2 febbraio ci sarà al Senato una nuova assemblea del PD nella quale sarà comunicato su quali emendamenti ci sarà libertà di voto. Bisogna vedere poi quali saranno gli emendamenti che saranno accettati e quelli che salteranno. Ricordiamo sono 6.000 in tutto, di cui 5.000 della Lega, e stamattina il nuovo centrodestra ha confermato il no su questo punto, quello proprio delle adozioni. Per Renato Schifani, gay non hanno il diritto di avere dei figli. Ieri l'attacco del presidente della CEI Angelo Bagnasco in vista del Family Day proprio sulla stepchild adoption, ovvero la possibilità di adottare il figlio naturale del partner in una coppia omosessuale. La tesi della Chiesa è che la famiglia è un fatto antropologico, i bambini hanno diritto di avere un padre e una madre. A te Simone. E grazie Elisabetta Fiorito. Noi adesso passiamo a parlare della seconda giornata di visita del presidente iraniano in Italia. Tra l'altro è finito pochi istanti fa l'incontro con il Papa, questa mattina invece l'incontro con la business community. Vincenzo Miglietta, buongiorno. Sì, buongiorno. Gli imprenditori, allora, questa mattina poco fa in Vaticano da Papa Francesco. Partiamo da quest'ultimo incontro. La ringrazio tanto per questa visita e spero nella pace le parole che il Santo Padre ha rivolto al presidente iraniano Rouhani. Il premier italiano Renzi verrà in Iran nei prossimi mesi per rafforzare i rapporti economici, e quanto si legge invece sull'account Twitter dello stesso Rouhani. E di accordi economici si è parlato questa mattina nel forum Italia-Iran, l'occasione questa per approfondire con tavoli dedicati le partnership su alcuni particolari temi, infrastrutture ed agricoltura tra tutte. Presente lo stesso Rouhani, che ha detto: come per i negoziati sul nucleare, anche nell'economia dobbiamo intraprendere una collaborazione vincente per tutti. L'Iran è il paese più sicuro e più stabile dell'intera regione. C'è molto interesse da parte delle imprese italiane, ha sottolineato invece il presidente di Confindustria Squinzi. Sentiamo le sue parole. Penso che ce ne siano tantissime che, oltre che essere pronte, sono desiderose di andare in Iran. Il mio gruppo stesso, che comunque fornisce già sostenute quantità significative dallo stabilimento di Dubai, si sta preparando per fare un investimento produttivo. E c'erano 7 miliardi di esportazioni prima delle sanzioni. Il primissimo obiettivo è quello, e poi credo che si possa andare molto avanti. Stiamo attendendo le condizioni alle quali investire, alla luce anche del prezzo del petrolio così basso. Le parole invece della presidente dell'ENI Marcegaglia. All'ENI e ad Enrico Mattei ha fatto riferimento il ministro degli esteri Gentiloni, che ha detto: il suo sogno è stato trasformato in realtà, una realtà di assiduo dialogo politico e collaborazione economica. È tutto, linea allo studio. Al di là di dichiarazioni in parte fumose e in parte rassicuranti, ieri nel vertice tra i ministri dell'interno è veramente saltato l'accordo di Schengen, ossia quello che permette la libera circolazione delle persone all'interno dei confini europei? Ne parleremo dopo il traffico con il sottosegretario all'interno Domenico Manzione, che ieri era là ad Amsterdam al vertice, che è già in linea con noi, al quale chiedo 2 minuti di pazienza. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezzi. I nostri titoli: la maxi inchiesta sulle fatture false nel mondo del calcio, ci sono 64 indagati, sarebbero coinvolti anche Galliani, Lotito e De Laurentiis, anche di questo torneremo a parlare tra poco. Era un pizzaiolo separato che portava un regalo al figlio, l'uomo col fucile giocattolo che ha messo in allarme la stazione di Roma, potrebbe essere indagato per procurato allarme. Parigi paralizzata dalla protesta dei tassisti, scontri, violenze e cassonetti incendiati. In questa giornata anche l'evacuazione di 5 licei per un allarme bomba. Prosegue anche a Genova la protesta dei lavoratori dell'Ilva, che sta tagliando in due la città. In piazza solo la FIOM, contrari gli altri sindacati. Saluto dunque Domenico Manzione, sottosegretario all'interno. Buongiorno e benvenuto, sottosegretario, anzi bentornato ai nostri microfoni. Buongiorno. buongiorno a lei e a tutti i nostri ascoltatori. Allora, per parlare del vertice di ieri di Amsterdam, e la domanda è quella che abbiamo fatto prima della viabilità. Insomma, al di là di tutte le dichiarazioni rassicuranti arrivate anche dal ministro dell'Interno, Angelino Alfano, la realtà è anche quello che vediamo titolare da molti giornali in queste ore, è che ci sono sei paesi che nella sostanza hanno ripristinato i controlli al confine. È in un certo senso la fine di Schengen? No, dunque, allora Schengen sicuramente non sta bene, perché come lei sottolineava ci sono sei paesi che hanno ripristinato però per i controlli alle frontiere, però per brevi periodi e in ambito Schengen, cioè sfruttando le potenzialità che la stessa convenzione, lo stesso codice ci dà per essere più precisi a ciascuno degli stati in questione. Se vogliamo puntualizzare ulteriormente, le posso dire che in realtà gli stati non sono sei ma sono nove, perché accanto all'Austria, alla Germania, alla Norvegia, alla Slovenia, alla Svezia, c'è anche la Danimarca, la Francia e Malta. Per ora si tratta di controlli, ripeto, molto limitati nel tempo e che sfruttano le potenzialità della Convenzione. La nostra idea è evidentemente che controlli di questo genere possano essere effettuati, ma non debbano mettere in discussione Schengen. Diciamo, è sicuramente non sta bene lo stato attuale dell'accordo, è questo. Tuttavia, prima di decretarne la fine, ce ne corra, anche allora, perché Manzione, sì, prego, finisca. No, dicevo, l'ipotesi dei due anni è un'ipotesi molto più che mette in gioco anche la Commissione e il Consiglio, insomma. Certo, quello che voglio capire è questo, Manzione, ieri stesso, ma l'aveva già detto prima, il ministro dell'Interno ha detto abbiamo poche settimane per salvarlo, qualcun altro ha detto abbiamo due mesi per salvarlo, ci spiega che cos'è questa scadenza della quale state parlando tutti quanti? Ma no, ma guardi, la scadenza è un limite temporale che fa riferimento al numero dei flussi sostanzialmente, perché la chiusura è chiaramente collegata al numero dei flussi e quindi i controlli servono semplicemente per contenerli, per creare una serie di barriere che dalla Grecia in su, voglio dire, possano consentire un numero di arrivi più bassi e quindi una migliore gestibilità delle persone che arrivano. Il lasso temporale è legato intanto alle scadenze europee, perché se dovesse andare al Consiglio, lei sa, è fissata a febbraio, quindi immagino che quando si parla di febbraio si parla di quella data, quindi delle decisioni che saranno prese in sede di Consiglio. Il lasso temporale più lungo fa riferimento evidentemente a una ripresa dei flussi che è messa in concomitanza col cambiamento di stagione e quindi con la possibilità che il numero lieviti ulteriormente. A proposito di flussi, sottosegretario, questo è un tema che i nostri ascoltatori conoscono, perché già ne abbiamo parlato proprio in questa trasmissione in effetto giorno. C'è il rischio forte che con una serie di chiusure di confini, no, che avvengono da altri paesi europei, come dire, il flusso dei migranti si sposti e riprenda, per così dire, la rotta adriatica, no? Migranti che arrivano in Puglia sostanzialmente. Ci dice quanto è concreto questo rischio? Che cosa vi aspettate per i prossimi mesi? E le aggiungo un'altra domanda. Si parla della possibilità di un hotspot, uno di questi centri di identificazione europei, a Tarvisio. Le sembra un'ipotesi probabile? No, non è un'ipotesi probabile, però è un'ipotesi che va fatta, nel senso che non è un hotspot da mettere insieme a quelli che intendiamo realizzare in Sicilia e che sono un adempimento del piano europeo sostanzialmente, il piano Juncker, Sicilia e Puglia. Questo non sarebbe un aumento del numero degli hotspot secondo quel piano di cui abbiamo appena parlato. In realtà il problema è che se si chiudono alcune frontiere e quindi si crea una specie di sacca all'interno del cuore dell'Europa, occorre fare delle previsioni su come questi flussi saranno orientati, e una delle vie l'ha indicata lei, cioè che è quella marittima appena citata. Un'altra potrebbe essere quella terrestre, che come lei sa è già in parte praticata soprattutto attraverso l'Austria per afghani e persone che vengono dal Medio Oriente. Di fronte all'eventualità che i paesi continuino a tenere fermi contro le frontiere e che quindi orientino verso queste due strade i flussi, evidentemente il Ministero dell'Interno si sta attrezzando per cercare di ipotizzare come poterli gestire. Solo in questa logica che parla del sesto hotspot, ma è tutt'altra cosa rispetto ai cinque hotspot previsti dal piano Juncker. Ecco. Quindi, solo una delle tante misure che si ipotizzano si possano mettere in campo nell'ipotesi in cui i flussi cambiassero e prendessero le due direzioni. Mi scusi, solo questo ci conferma che la collocazione potrebbe essere Tarvisio? Ma guardi, sulla collocazione francamente non è che si sia discusso come se fosse una scelta determinata, è già adottata, se ne è parlato come ipotesi di eventuale gestione, la località non è detto che sia quella. La ringrazio, grazie a Domenico Manzione, a sottosegretario all'interno, al quale auguro una buona giornata e un buon lavoro, e saluto Marco Bellinazzo del Sole 24 Ore, e questa è una di quelle giornate a proposito del lavoro nelle quali Marco Bellinazzo è un po' sotto pressione. Marco, buongiorno e benvenuto. Eccoci, buongiorno. Tant'è che ti ritroviamo tra un'ora circa, un po' più ampiamente all'interno di tutti i convocati, per parlare di questa maxi inchiesta sulle fatture false nel mondo del calcio. Sono 64 indagati, coinvolti anche Galliani, Lotito, De Laurentiis. Quello che vogliamo sapere da te è come i magistrati ipotizzano che funzionasse questo meccanismo. Ma in sintesi si tratta di ipotesi legate a una eccessiva fatturazione di costi da parte dei procuratori, quindi attraverso vari meccanismi, che finivano in sostanza per abbattere l'imponibile delle società di calcio e per gonfiare invece i portafogli di questi ultimi. Uno dei meccanismi, per esempio, è il fatto che una parte dello stipendio del calciatore veniva pagato e fatto risultare a bilancio come un costo dell'attività di intermediazione del procuratore. In questo modo, per esempio, le società di calcio risparmiavano le imposte, perché sono società di calcio che pagano le ritenute IPEF sui lauti ingaggi che percepiscono i calciatori. Tutto questo sistema peraltro aggravato da ipotesi, diciamo, di rotte internazionali su cui somme in nero sarebbero poi girate per remunerare tutti gli attori in causa e fregare e frodare il fisco sia in Italia che all'estero. Ci sono state anche rogatorie in Argentina e Uruguay, perché la cosa da ricordare è che questa inchiesta parte nel 2012 dalla Procura di Napoli e arriva ad oggi, e si spera che sia l'ultima tappa e che si arrivi, insomma, a delle conclusioni per sancire se effettivamente il mondo del calcio è malato anche dal punto di vista tributario. Marco Bellinazzo, io ti ringrazio del Sole 24 Ore, come già dicevo lo trovate tra circa un'ora di nuovo in tutti i convocati per fare il punto su tutto questo e per raccontarvi un po' più nel dettaglio, insomma, esattamente che cosa succedeva. Grazie Marco Bellinazzo, dunque buona giornata e buon lavoro. Noi ci fermiamo, andiamo a sentire che cosa succede in borsa, come già vi dicevo la giornata è positiva, e poi nella seconda parte della trasmissione, visto che abbiamo parlato di calcio, ma parliamo di calcio di quello bello, stasera è una grande giornata per Alessandria, in realtà non solo per la squadra che si confronta in semifinale di Coppa Italia con il Milan, ma anche per la città. Pensate che, come vi dicevamo nei titoli, un quinto degli alessandrini sarà questa sera allo Stadio Olimpico di Torino ad assistere alla semifinale. Ne parliamo con il sindaco per sentire un po' qual è il clima in città, tra poco. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia. I nostri titoli: la maxi inchiesta sulle fatture false nel mondo del calcio. Ci sono 64 indagati, sono coinvolti anche Galliani, Lotito e De Laurentiis. Il Milan replica, finirà con un'archiviazione. Di pochi istanti fa le dichiarazioni del presidente del CONI, Giovanni Malagò, che dice fondamentale che tutto sia chiarito il prima possibile. Una giornata difficile per Parigi, paralizzata la protesta dei tassisti, ci sono stati scontri, violenze, cassonetti incendiati, lanci di Molotov, protestano i tassisti contro Uber, e c'è stata anche l'evacuazione di 5 licei per un allarme bomba. Prosegue intanto a Genova anche la protesta dei lavoratori dell'Ilva, che sta tagliando in due la città. In piazza solo la FIOM, contrari gli altri sindacati. Era un pizzaiolo separato che portava un regalo al figlio. L'uomo col fucile giocattolo che ha messo in allarme la stazione di Roma potrebbe essere indagato per procurato allarme. I senatori del PD riuniti danno il via libera al DDL sulle unioni civili, quantomeno nel suo impianto, libertà di coscienza sul tema dell'adozione del figlio del partner. La borsa. Effetto giorno. Ed eccoci di nuovo per parlare del sogno dell'Alessandria questa sera, la semifinale di Coppa Italia contro il Milan. Saluto il sindaco di Alessandria, Maria Rita Rossa. Buongiorno, buongiorno e benvenuto. Buongiorno. Ma lei c'è stasera allo stadio, certo, di Torino? Certo. Abbiamo letto che c'è un quinto degli abitanti di Alessandria sarà questa sera allo stadio. Sì, tutta Alessandria all'Olimpico. Per... certifare la nostra squadra, i nostri colori, la nostra storia e anche la scommessa sul nostro futuro. Un pronostico? Beh, vince l'Alessandria, noi andiamo a vedere. Quanto? Ha già vinto l'Alessandria, in realtà, perché Alessandria ha già vinto, insomma, ha già fatto una impresa straordinaria, ha reso più umano il calcio, perché sembra così inarrivabile, sembrano personaggi... no? E ambienti inespugnabili, in realtà con tenacia, con perseveranza, con amore per i colori di questa maglia che è straordinaria e unica, questi ragazzi, il progetto sportivo del presidente, della dirigenza, tutti i support, quei tifosi che sono anni e anni e anni che ci credono con la stessa passione, lo stesso orgoglio e lo stesso amore, e hanno ottenuto un risultato straordinario che è solo loro e che fa bene a tutti quanti, insomma. Quindi bene. Per chi non va allo stadio, ci sono i maxi schermi. Certo, c'è il maxi schermo di Piazza Duomo che abbiamo messo. Qualche ascoltatore molto malizioso ci scrive su WhatsApp: attenti ai furti questa sera ad Alessandria, speriamo. Veramente. Perché ci ha pensato questa idea, abbiamo comunque rafforzato un po' il controllo con le pattuglie, ma insomma speriamo che tutti, davvero tutti, fino ad Alessandria, che si sentano per una sera tutti accomunati, insomma, da questo grande momento. Però il pronostico me lo deve fare col punteggio, sindaco? No, non riesco a fare un punteggio, per me non ci riesco. Per me è già un grandissimo risultato e poi... Lei lo seguiva il calcio prima? Io non sono un'esperta, non saprei fare valutazioni. Cerco di... mi diverto, mi piace questo momento che è comunque sempre un momento di comunità e di aggregazione. Quando ero alla Spezia ho messo un commento e mi sembra che i nostri abbiano schemi chiari e stiano giocando e gli altri difendono il risultato che avevano ottenuto con un rigore subito ai primi momenti e quindi non dovrebbe mancare il risultato, infatti hanno pareggiato e poi hanno segnato. Permetto di dire che il Milan non è il Milan dei tempi in cui sembrava una squadra impossibile da battere, magari stasera si può fare e quindi magari ne usciamo vittoriosi, non è detto. Città comunque in gran fermento. Bene, speriamo. In bocca al lupo. Che danno il 98% la vittoria del Milan, io scommetto sul 2%. Ah, benissimo. Alessandria, chissà che magari non si vinca. Maria Rita Rossa, sindaco di Alessandria, salve e buona giornata. Torniamo a parlare di unioni civili perché, come vi abbiamo detto, la notizia di oggi è che l'Assemblea dei senatori del PD ha dato il via libera all'impianto del DDL Cirinnà, che è appunto quello che andrà in votazione, si inizierà a votare nella giornata di giovedì, ovviamente con libertà di coscienza sul tema dell'adozione del figlio del partner. Siamo riusciti a raggiungere Monica Cirinnà, che appunto è la persona che ha elaborato questo DDL. Buongiorno senatrice, benvenuta. Buongiorno a voi gli ascoltatori. Immagino che sia piuttosto soddisfatta, insomma, alla fine in qualche modo all'interno del suo partito una certa quadra si è trovata pur tra tutte le tensioni. Ma dopo 2 anni di lavoro e 4 stesure del testo, finalmente il Partito Democratico ha trovato un punto d'unità su un impianto generale sia del titolo 1 unioni civili, sia del titolo 2 diritti dei conviventi di fatto. Noi parliamo sempre di unioni civili tra persone dello stesso sesso, ma questa legge riconoscerà finalmente anche le convivenze more uxorio. Il gruppo all'unanimità ha deciso che, indipendentemente dall'unico punto divisivo che ancora resta, che è quello sulla genitorialità, comunque il voto finale sarà favorevole. Quindi 120 senatori del PD voteranno sì al DDL 2081. E lo voteranno comunque, cioè se a un certo punto, se passasse nel corso del dibattito parlamentare appunto la stepchild adoption, magari col voto di, quindi l'adozione da parte, l'adozione del figlio del partner, con il voto di qualcun altro, mettiamo il Movimento 5 Stelle tanto per fare un esempio, comunque il decreto alla fine anche i cosiddetti cattodem lo voteranno, questo è l'impegno che hanno preso, per capire meglio. Certo, l'impegno è quello che qualunque cosa accada, facendo ovviamente il massimo sforzo di unità sull'articolo 5 che riguarda la genitorialità, il voto finale sarà sì per tutti. E quindi immagino che questo le dia una bella soddisfazione. Tra l'altro ci prepariamo a una settimana piuttosto intensa, perché viene incardinato appunto in Parlamento il suo DDL e poi sabato c'è questo Family Day. Che dice lei del Family Day? Sarà una bellissima piazza, come sono state bellissime le 90 piazze Arcobaleno d'Italia. Sarà una piazza in cui ognuno porta un contributo a questa discussione. Spero che non sia una piazza di rabbia, una piazza di divisione, ma una piazza che unisce chiunque vuole diritti per le famiglie. Guardate, negli ultimi 20 anni il welfare di questo paese non ha sostenuto le famiglie tradizionali di eterosessuali sposate con figli e ha negato i diritti alle famiglie arcobaleno e alle famiglie di coppie dello stesso sesso. Quindi il risultato della discriminazione è niente per nessuno. Forse è ora di uscire da questa logica e unirci tutti insieme, proprio perché le famiglie sono tutte uguali e vanno tutte ugualmente sostenute. Le voglio far sentire una voce, se ce l'abbiamo pronta possiamo, via. Sindaco di Milano ha illuminato la facciata del comune di Milano con i colori arcobaleno della manifestazione di piazza di sabato. Domanda: perché il comune di Milano può farlo e la regione Lombardia no? Risposta: ma se uno fa un errore, perché replicare l'errore? No, non è un errore, è la doppia morale della sinistra. Se lo fanno loro si può fare, se lo faccio io no. È il doppio pesismo della sinistra, a cui io rispondo. In questo modo non solo continuerò a fare quello che ho fatto, ma la prossima volta illuminerò anche l'altro palazzo della regione, Palazzo Lombardia. Allora, l'ha sentito e l'ha riconosciuto. Roberto Maroni, il presidente della regione Lombardia, ha fatto scrivere con le lucine delle finestre Family Day nel giorno della manifestazione sul Pirellone, ha detto lo faccio anche sull'altro palazzo. Che dice Cirinna? Dico, guardi, che io in questo momento rappresento il legislatore e tutti coloro che vogliono dare una legge seria di riconoscimento di diritti alle famiglie arcobaleno. Maroni può fare quello che ritiene, io penso che gli italiani vogliano concretezza, diritti e leggi applicabili bene e da subito, tutto il resto è chiacchiera. La ringrazio, grazie a Monica Cirinna, senatrice del Partito Democratico. Domani è il giorno della memoria e il Foglio lancia un'iniziativa: indossare la kippah per ricordare che l'Occidente non deve nascondere le sue radici e i propri simboli religiosi. Questo anche dopo quello che è avvenuto a Marsiglia, dove è stato consigliato agli ebrei di non esibire segni dopo che ci sono state delle aggressioni. Marta Cagnola ha raccolto la voce del direttore del Foglio, Claudio Cerasa. L'idea è nata qualche settimana fa, quando all'indomani di un'aggressione a un insegnante ebreo di Marsiglia, che è stato aggredito da un islamista mentre si avvicinava alla sinagoga della sua città, il giorno dopo il concistorio israelitico di Marsiglia ha invitato i fedeli della comunità ebraica a rassegnarsi, a non provocare e a non indossare più la kippah in attesa dei giorni migliori. Ecco, secondo me questa è la fase in cui bisogna metterci non solo la testa ma anche la faccia e dire che l'Occidente non può arretrare e che è giusto trasformare la giornata della memoria nella giornata della kippah per solidarizzare contro il nuovo antisemitismo e contro un tentativo costante di autoflagellarci per non provocare e per far arretrare l'Occidente, diciamo così. Il traffico, Mario Platero, ci risentiamo alla fine per i saluti.